sta cupulella che vi si è rezzata. Passa scampagnando per Toledo, vattene qua po' vede, fa guardare Papa l'americano. Por eso sí.